Salve a tutti, io sono Yasmin e questo è Radio Big World. Benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei classici Disney. Oggi parliamo di due film molto simili, sempre dello stesso filone dei film a episodi o a segmenti. Il primo si chiama Lo scrigno delle sette perle ed è stato distribuito nel 1948. Questo film è sul filone di fantasia, solo basato sulla musica pop del periodo. Quindi ogni segmento ha come stile, partendo dallo swing, al jazz, al boogie e a tanti altri tipi di musica popolare del periodo, anche delle ambientazioni dello stesso filone. Il titolo prende il nome proprio dai sette segmenti che lo compongono. E ogni episodio e ogni corto, appunto, ha una diversa ambientazione. Anzi, alcuni di questi corti dovevano pure essere messi in fantasia, però non furono mai ripresi. Il secondo invece è un film più articolato ed è composto solo da due corti. E il titolo è Le avventure di Ichabod e Mr. Toad. Questi due corti prendono la loro trama da delle storie della letteratura inglese. Il primo segmento si chiama Il vento fra i salici e vede come protagonista Taddeo il rospo, che è una figura un po' di un esteta perché è ambientato nei primi del Novecento. Mentre il secondo, che è la storia di Ichabod, si chiama proprio così, parla della famosa leggenda di Sleepy Hollow e del Cavaliere senza testa. Quindi è un po' un film e un lungometraggio dai temi un po' diversi per un cartone per bambini. Tra l'altro questo sarà l'ultimo film collettivo a episodi che la Disney farà fino a Winnie the Pooh, quindi passeranno quasi una decina d'anni prima dell'uscita di Winnie the Pooh. E proprio come Winnie the Pooh, in realtà anche le avventure di Ichabod e Mr. Toad non vennero mai distribuite nei cinema italiani quando uscirono. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.